Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. L'impiccagione di Delera Darabi in Iran è solo l'ultimo esempio delle innumerevoli violazioni dei diritti umani che avvengono nei paesi islamici, tra l'indifferenza pressoché totale del mondo occidentale. Hanno impiccato Delara Darabi in Iran. Prima di lei, dall'inizio di quest'anno, il boia ha stretto il cappio altre 140 volte. Sono in attesa di esecuzione altri 150 condannati. Le autorità di Teheran amano esibire le forche da cui pendono i corpi senza vita dei criminali. Chiamano i fotografi e le telecamere per rivendicare un castigo cui il mondo occidentale assiste con raccapriccio, ma con fatalistica rassegnazione. Delara Darabi aveva 17 anni quando ha commesso il crimine di cui è stata giudicata colpevole. È vero che formalmente l'Iran aderisce alla Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, in cui l'articolo 49 vieta espressamente la pena capitale per chi ha commesso reati quando era minorenne. Ma per le ragazze iraniane la maggiore età scatta a soli 9 anni, a 15 per i ragazzi. Una soglia d'età molto bassa, che consente di dare veste legale alla sopraffazione del matrimonio coatto, quando le donne vengono consegnate al nuovo marito padrone, senza il loro consenso. In Iran molte ragazze maggiorenni, ma anche i ragazzi stavolta, sono peraltro rinchiuse in carcere per futili motivi. Senza arrivare all'impiccagione che ha spezzato la vita di Delara Darabi, molte ragazze sono quotidianamente fustigate e lapidate se il loro comportamento non si è dimostrato conforme alle occhiute direttive racchiuse nella Sharia. A Teheran non esiste distinzione tra peccato e reato, tra diritto e morale, tra legge e precetti religiosi. I precetti assomigliano a farse grottesche, dove il diritto alla difesa dell'imputato è praticamente inesistente e il giudice è molto spesso la stessa persona che svolge attività di polizia e di indagine. Se a Teheran finisci nelle grinfie della giustizia degli Ayatollah, la tirannia politico-religiosa può fare qualunque cosa di te, violando impunemente ogni genere di trattato internazionale. Nelle prigioni iraniane, gli aguzzini praticano con successo la tecnica degli interrogatori pesanti per estorcere alle vittime la confessione di reati mai commessi. Tutti confessano, ha detto la dissidente Marina Nermat, arrestata a 16 anni per attività rivoluzionaria, nella speranza che l'incubo finisca e le torture terminino. Le torture colpiscono con eguale spietatezza maggiorenni e minorenni. E del resto, che differenza fa se si contano a migliaia i minorenni che, infervorati nell'attesa del martirio, negli anni Ottanta vennero mandati al massacro nella guerra santa contro Saddam? Nei bracci della morte delle galere iraniane, sostiene Amnesty International, ci sono tantissimi condannati, tra i quali prigionieri politici, detenuti per reati d'opinione, omosessuali, adultere e adulteri. La comunità internazionale è perfettamente al corrente, sin nei minimi dettagli, dei modi con cui la tirannia teocratica di Teheran tratta i suoi sudditi, e non si può certo dire che la sua linea di condotta sia chiara e univoca. Non far niente per soccorrere chi sta per essere consegnato al boia. Si indigna giustamente per Guantanamo, ma non riesce ad accendersi con pari veemenza per le violazioni dei diritti umani e civili in Iran. In compenso, l'ONU stila i testi delle sue convenzioni, sapendo che non verranno mai onorati. E basta. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Iran, 9 anni bastano per la pena di morte, dal Corriere della Sera del 4 maggio. Dai soldi per i writer ai fondi per il Capodanno cingalese. La campagna elettorale della provincia di Milano passa anche per finanziamenti non proprio indispensabili, sottolinea Lorenzo Mottola dalle pagine di Libero. Dai cacciatori de La Beccaccia alla Fondazione per la Cooperazione Italo-Cingalese, in provincia c'è trippa un po' per tutti. Basta fare domanda e l'associazione di turno in tasca. Questione di clientele, siamo in campagna elettorale, accusa il capogruppo di AN Gianfranco De Nicola. Che sia vero o meno, sta di fatto che tra l'8 e il 24 aprile la giunta, maggioranza PD, ha stanziato poco meno di 500.000 euro per finanziare una miriade di eventi e festicciole di ogni genere. Soldi a pioggia, spesso spesi in maniera grottesca. Non tutti, ad esempio, comprenderanno la ragione per cui l'assessorato allo sport abbia deciso di offrire un migliaio di euro all'associazione Solidarietà Italia-Sri Lanka per organizzare un veglione. Per chi non sapesse, nell'isola asiatica all'inizio dell'anno si festeggia il 14 aprile. I cingalesi di Milano, lontani da casa, hanno pensato di organizzare una bella mangiata nel loro centro, con i soldi della provincia. Intascherà 1.000 euro anche l'IARD. Sulla carta si tratta di una delle tante associazioni per la cooperazione internazionale e l'integrazione. In realtà la sede di questa onlus si trova all'interno di un centro sociale occupato, il Cantiere. La notorietà di questo luogo è dovuta più che altro alla lunga serie di scontri che hanno visto come protagonisti i suoi militanti, dalle macchine incendiate di Corso Buenos Aires fino alle cariche contro la polizia di fronte al Teatro Piccolo questo inverno. Con i soldi ricevuti da Palazzo Isimbardi, tra l'altro, gli autonomi prepareranno un convegno contro la violenza. Altri 10.000 euro finiranno nelle casse dell'associazione JF Kennedy di Roma per la realizzazione del fondamentale opuscolo Speak Truth to the Power, manualetto sulla schiavitù minorile che dovrebbe successivamente essere stampato e distribuito anche nel milanese. Questo ovviamente solo in teoria. Un altro migliaio di euro andrà all'associazione Artisti di Porta Genova per realizzare il progetto I miei writers, i loro tags. Il piano prevede di realizzare una serie di murales per decorare le case di Cratosoglio. In effetti ne avrebbero bisogno. Nonostante stia in piedi grazie ai voti dei Verdi, la giunta ha stanziato 50.000 euro per tenere in piedi una ventina di associazioni venatorie. Dal circolo La Beccaccia di Vignate all'associazione Cacciatori di Calò di Besana Brianza, tutti hanno intascato qualcosa. Il tutto costerà 2.000 euro. Ci sono infine le classiche iniziative pro integrazione. Il comune di Corsico organizzerà nei prossimi mesi una serie di eventi, non è chiarito di che genere, per la promozione della multietnicità. Verrà presentato il frutto del lavoro della locale consulta per gli immigrati. Prezzo 3.000 euro. La campagna elettorale del PD, tuttavia, non è fatta esclusivamente di stanziamenti. Per sbaragliare la concorrenza, basta spiegare cosa è stato fatto in questi anni di governo. Per esempio, sul periodico La Provincia in Casa, una delle tre riviste istituzionali di Palazzo Isimbardi, si legge che la giunta piddina ha piantato la bellezza di 3 milioni di alberi. Una foresta. Ci chiediamo dove sia nascosta questa distesa verde, si chiede il consigliere provinciale azzurro Max Bruschi. Forse sul terrazzo di Penati, perché noi non abbiamo visto niente. In effetti si tratterebbe di un'impresa titanica dal costo di 200 milioni di euro. Cifre un po' alte per un'amministrazione provinciale. Il forzista Bruschi poi calca la mano contro la rivista che ha pubblicato la notizia. Solo per la distribuzione questi giornali ci costano 333.000 euro all'anno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Lorenzo Mottola, La provincia regala soldi ai No Global, da Libero del 5 maggio. Basta con le sdraio che si rompono e gli accappatoi troppo stretti. Per venire incontro alle esigenze degli obesi, un tour operator tedesco organizza vacanze extra large. Basta con la discriminazione dei sovrappeso. Basta con i viaggi di vacanze e le escursioni turistiche rese difficili agli obesi. Sono cittadini e turisti come gli altri. Hanno diritto alla stessa assistenza e magari a un tour operator tutto per loro. In Germania, nella ricca e grassa Norimberga, capoluogo della Baviera del Nord, è nata la prima agenzia di viaggi europei che offre servizi d'ogni genere a chi ha qualche o parecchi chili di troppo. Il tour operator si chiama Dick Reisen, che in tedesco, con un gioco di parole, vuol dire sia i ciccioni viaggiano, sia viaggi alla grande, ed è stato fondato da Silvia Strasser. Anch'io sono sovrappeso, quindi conosco i problemi dei miei clienti, dice lei. E la clientela non le manca. Tra i tanti popoli dei paesi dell'Unione Europea, i tedeschi, con i britannici, sono a livelli record in quanto a obesità. E, crisi internazionale o no, la clientela di obesi desiderosi di viaggiare non è esigua e non diminuisce. Non diminuiscono però neanche i durissimi problemi che i turisti sovrappeso affrontano. Dai posti sugli aerei, spesso troppo stretti e piccoli per loro, fino alla fatica di gite in cui si deve camminare troppo a lungo, o a sedie in piscina o sulla spiaggia, che si rivelano troppo fragili e si rompono sotto il loro peso. A me è accaduto. È stato un imbarazzo terribile, racconta al Tagesspiegel e a Spiegel Online Gunther Kovarz. Ero in un villaggio vacanze. Mi sono seduto lentamente e con ogni cautela, ma la sedia sul bordo della piscina si è fracassata. Sono stato oggetto di ludibrio. Tutti gli altri bagnanti hanno riso di me. La metà delle donne e due terzi degli uomini sono sovrappeso in Germania e quindi queste esperienze sono problemi di massa. Non è facile organizzare i viaggi per il sovrappeso, spiega Silvia Strasser. In Germania molti hotel e wellness center non vogliono avere nulla a che fare con i ciccioni. Li ritengono un disturbo per i clienti normali. All'estero va molto meglio, sono più comprensivi, specie nell'Europa meridionale e nei paesi scandinavi. Dick Reisen offre programmi calibrati sui problemi degli obesi, viaggi senza angosce, a Tenerife, ma anche in Austria, in Norvegia o in Francia. Taxi dall'aeroporto all'albergo, aiuto per i bagagli, bagno in gruppo in piscina per non avere l'imbarazzo di sentirsi da soli. A richiesta, Frau Strasser accompagna di persona i gruppi più problematici e li guida anche in corsi di ginnastica in acqua o di Nordic Walking. Non pochi dei suoi clienti organizzano un viaggio turistico per la prima volta grazie alla sua agenzia. Prima avevano incontrato troppe difficoltà e ricevuto troppi rifiuti dei maggiori tour operator, da TUI a Neckermann, ad aiutarli con la loro specifica difficoltà fisica. Un problema molto serio sono i posti sugli aerei. Alcuni vettori low cost, come Ryanair, hanno introdotto una fat tax, una tassa sui ciccioni, un sovrapprezzo un tanto al chilo di sovrappeso. Molti obesi, presi dall'angoscia, preferiscono prenotare e acquistare due posti affiancati. L'alternativa, la classe business, con sedili più larghi, spesso non costa meno che due posti in economy. Sedersi in aereo è la cosa più imbarazzante per chi è sovrappeso. A volte gli altri passeggeri ti deridono fino all'insulto, narra il signor Kovarz. Meglio il treno, puoi prenotare uno scompartimento intero. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Tarquini, Vacanza Extra Large, arriva l'agenzia per viaggiatori obesi, da Repubblica del 24 aprile. Letture di Radio 24. Sul numero 23 della rivista Candido, pubblicato il 6 giugno 1959, il direttore Giovanni Guareschi, divenuto popolare grazie ai racconti dedicati a Don Camillo e Peppone, risponde ad una lettera che gli era stata inviata da un certo Gianni Vattimo di Torino, all'epoca semplice studente, oggi noto filosofo e uomo politico. Signor direttore, vedo che il suo giornale, fra le molte pagine dedicate agli eserciti e agli armamenti, al cancelliere Adenauer, all'odio razziale dei negri contro i bianchi indifesi, all'esaltazione del regime forte del generale de Gaulle e delle torture francesi in Algeria, trova spazio per occuparsi dei metallurgici torinesi e in particolare di me. Grazie, non meritavo l'onore. Oggi in Italia essere attaccati e così volgarmente dal Candido equivale oramai a ricevere una patente di onestà e di civiltà. Confesso che dopo il primo momento di ira spontanea e di propositi omicidi, articoli come quello del Guareschi lasciano solo un profondo senso di pena per la loro volgarità e il pubblico vilipendio della ragionevolezza. L'articolo contiene parecchie inesattezze. Il Guareschi non conosce i fatti di cui parla, né la situazione delle fabbriche torinesi, ma questo non gli impedisce di scriverne per più di una pagina. Non è vero, per esempio, che io mi trovassi tra gli scioperanti per predicare il Vangelo, ma solo per difendere la Costituzione, che credevo stesse a cuore a tutti gli italiani, anche ai redattori del Candido. Non è vero che io sia fiduciario o segretario della GIAC. Il Guareschi dimostra che la sua ignoranza di cose cattoliche è pari, se non superiore, a quella dei comunisti, bensì vicepresidente diocesano. Vorrei invitarla a pubblicare questa rettifica a norma delle vigenti leggi sulla stampa. Ma benché creda ancora profondamente nelle leggi, non credo all'onestà del suo giornale e temo profondamente che questa lettera cada nel vuoto. Forse è fatale perché in generale, salvo le eccezioni tipo Guareschi, la parola scritta si rivolge all'intelligenza. La saluto, Gianni Vattimo. I timori del signor Gianni Vattimo erano infondati e la sua lettera, invece di cadere in quello che egli, con arguto eufemismo, chiama vuoto, è stata presa nella più seria considerazione e inviata, dalla direzione di Candido, a colui che ha provocato il giusto risentimento del giovane, aitante e sociale studente torinese. Naturalmente, come era facile prevedere, dato che la parola scritta si rivolge all'intelligenza, il Guareschi, letta e riletta l'incandescente missiva, ha concluso malinconicamente: «Non capisco». Albeggiava e lo sciagurato, non avendo il coraggio di svegliare la figlia, una giovinetta che, come asseriscono i suoi professori, non si applica ma è intelligente e quindi in grado di comprendere la parola scritta, è uscito di casa e si è messo a vagare per i campi continuando a domandarsi a voce alta «Cosa posso aver scritto di tanto volgare e irragionevole da suscitare in un giovane timorato di Dio propositi omicidi?» La disperata domanda è rimasta a lungo senza risposta, ma a un bel momento si è udita una voce. Invece di continuare a infastidire chi sta lavorando, rilegga quello che ha scritto e lo saprà. Si trattava di uno degli eroici spesati impegnati nello sciopero agricolo e stava recidendo al piede le viti di un filare appartenente a un grosso agrario. «È inutile che io rilegga ciò che ho scritto», ho risposto sconsolatamente, «perché la parola scritta si rivolge all'intelligenza, mentre io, appartenendo alle eccezioni tipo Guareschi, sono da classificare fra i cretini». Lo spiega chiaro e tondo in questa sua lettera lo studente Gianni Vattimo da Torino. L'uomo ha interrotto il suo lavoro. «Gianni Vattimo?» ha esclamato. «Quel giovanotto di cui l'Unità ha pubblicato recentemente la fotografia?» «Proprio lui». Agganciato il falcetto alla cinghia dei pantaloni, lo spesato ha preso la lettera che gli mostravo scorrendola con palese interesse. «È chiaro come il sole», ha stabilito poco dopo. «Lei è un turpe reazionario che collabora a un giornale esaltatore del militarismo, del razzismo, del colonialismo, del fascismo e di tutti i peggiori ismi dell'universo. È nemico dichiarato della pace, della giustizia sociale, dei lavoratori, della civiltà, del progresso, della democrazia e via discorrendo. Quindi, qualunque cosa scriva, è una mascalzonata». Tratto di tasca un quadernetto e una matita copiativa, ha preso nota delle mie generalità e del mio indirizzo, concludendo: «Appena scoppia la rivoluzione, si tenga a disposizione del locale tribunale del popolo». Ho tentato di avere una spiegazione meno generica della lettera del signor Vattimo, ma l'uomo ha scosso il capo. «Lei ha tempo da perdere, io no. Io, entro un'ora, debbo aver tagliato le viti di questo filare e tutti i peli di quel frutteto, perché alle 6 debbo essere in una cascina per impedire ai porci crumiri di dare da mangiare alle vacche e di mungerle. Voi, maledetti agrari, pensate soltanto a sfruttare la terra e chi la lavora. Ma noi pensiamo all'avvenire agricolo dell'Italia. A proposito, lei ha ancora quella 1200 grigia col tetto chiaro?» «Sì». «Veda di usarla con riguardo e di farmela trovare perfettamente in ordine il giorno della rivoluzione. Mi interessa. La Mercedes a nafta la faccia adattare a camioncino. Serve a mio cognato. Ho anche una bianchina. Lo sappiamo e sappiamo che ha ancora il suo vecchio Guzzino. A meno che non l'abbia venduto a Ruttamaio per protestare contro gli operai della Guzzi che finalmente hanno imparato anche loro a scioperare e marciano a fianco degli altri metalmeccanici sulla via radiosa delle rivendicazioni sociali». Si è rimesso al lavoro, ridacchiando soddisfatto, e io ho continuato il mio sconsolato girovagare per i campi. Ero fradicio di rugiada fino a mezza gamba e ho puntato verso la strada, riuscendo poco dopo a raggiungerla. Non sapevo dov'ero e un cartello indicatore ha tentato di illuminarmi. Vano sforzo, perché dato che la parola scritta si rivolge all'intelligenza e io faccio parte delle eccezioni tipo Guareschi, invece di tornare a casa, sono finito in uno sperduto paesino di montagna da dove scrivo la seguente risposta al signor Gianni Vattimo. «Stimatissimo signor Gianni Vattimo, ignoravo che il signor Minardi avesse trasformato il Candido in un settimanale esaltatore del bellicismo, del razzismo, del torturismo, eccetera. Adesso che un compagno, incontrato casualmente in mezzo ai campi, me lo ha spiegato, lo so. Ignoravo che il mio scherzoso articoletto intitolato «Cristo fra i metallurgici» fosse tale da suscitare in un primo tempo propositi omicidi e in un secondo tempo un profondo senso di pena per la sua volgarità e il pubblico vilipendio della ragionevolezza. Siccome il compagno incontrato casualmente in mezzo ai campi non me lo ha spiegato, continuo a ignorarlo. Può darsi benissimo che il mio articolo contenga delle inesattezze, ma dapoiché io mi sono limitato a commentare quanto, riguardo alla sua azione durante le ardenti giornate torinesi, è stato stampato sull'Unità, la sua lettera di protesta doveva essere indirizzata non a Candido, bensì all'Unità. Non è vero che lei sia fiduciario o segretario della GIAC, ma è soltanto vicepresidente diocesano. Non ho nessuna difficoltà a crederle sulla parola scritta, ammesso che io riesca a comprenderne il giusto significato. Però questo non cambia la situazione. Fiduciario o segretario o vicepresidente diocesano o semplice giovane cattolico, lei rimane ciò che col suo contegno ha dimostrato di essere: un normale comunistello da sagrestia, un normale comunistello bianco, un normale lapirino, uno dei normali cattolici anormali che si danno freneticamente da fare per mettere d'accordo Gesù Cristo e Carlo Marx. L'Unità, nell'ampio articolo a lei dedicato, la definisce ripetutamente segretario della gioventù cattolica. Perché io, che mi sono limitato a citare le testuali parole dell'Unità, dimostro un'ignoranza delle cose cattoliche addirittura superiore a quella dei comunisti? Ci vuol dire su quale sacro testo o documento sta scritto che l'ignorare che Gianni Vattimo è vicepresidente diocesano e non segretario della GIAC significa dimostrare sì grave ignoranza dei principi basilari della religione cattolica, da dover essere considerati addirittura più deprecabili e condannabili degli stessi scomunicati comunisti? Il Guareschi, lei dice, non conosce i fatti di cui parla, né la situazione delle fabbriche torinesi. Non entro in discussione a tal proposito. Io non ho parlato della situazione delle fabbriche torinesi, ma soltanto di quanto aveva scritto su di lei il cronista dell'Unità. Non è vero che lei si trovasse tra gli scioperanti per predicare il Vangelo, però c'era, col suo bravo cartello, come dimostra la foto pubblicata sullo stesso numero dell'Unità, ed è stato fermato dalla polizia. Altri fermi venivano eseguiti mentre le camionette caricavano la folla. Sul camion su cui venivano issati i fermati si ammassavano in breve 11 persone, 4 studenti, fra cui 2 dell'Azione Cattolica, e il fiduciario provinciale Vattimo, un'operaia della RIV, un passante, un partigiano, un cronista, un fotoreporter, un attivista della CGIL e una passante. Lo scrive l'Unità, quell'Unità che lei non ha smentito, e siccome la parola scritta si rivolge all'intelligenza, e lei è intelligente, avrà capito anche il periodo seguente. Gianni Vattimo, poiché un poliziotto inveiva bestemmiando, lo ammonì severamente richiamandolo ai propri doveri di pubblico ufficiale e declamò poi versetti del Vangelo che condannano le violenze dei potenti, mentre un altro studente leggeva ad alta voce gli articoli della Costituzione. Ma dico, lei giovane, a differenza di noi, perfettamente al corrente delle cose cattoliche e quindi anche di quelle cristiane, ha sentito il suo delicato animo pervaso da propositi omicidi solo perché io ho citato e commentato con benigno compatimento la prosa che il suo gesto demagogico aveva ispirato al diligente cronista dell'Unità? Perché, domando, non ha sentito il desiderio di uccidere, invece di me, il cronista dell'Unità? Oggi in Italia essere attaccati, e così volgarmente dal Candido, equivale oramai a ricevere una patente di onestà e di civiltà, lei scrive. E io allora completo. Mentre a essere esaltati e così calorosamente dall'Unità equivale a ricevere una patente di fesseria. Non si lasci trasportare dall'ira spontanea e chiuda la porta del suo delicato cuore di cristiano e di vicepresidente diocesano ai truci propositi omicidi. Non l'ho attaccata volgarmente. Anzi, ho cercato con ogni cura di tenere la mano leggera. E lei dovrà darmene francamente atto, perché sa che i comunisti sono espliciti in proposito e definiscono coloro che si comportano come si è comportato lei, utili idioti. Ora, non vorrà giudicarmi peggiore dei comunisti se io, invece della patente di idiozia che le hanno concessa con l'articolo dell'Unità a lei dedicato, gliene concedo una di semplice fesseria. Siccome la parola scritta si rivolge all'intelligenza, salvo nel caso in cui chi scrive sia gente come Guareschi, io, essendo appunto Guareschi, avrei ragione di temere che questa lettera cada nel vuoto. Ma, considerando che la parola scritta, se proviene da me, è però rivolta a lei, ho invece viva e giustificata speranza che lei ne terrà buona nota. Si consigli, comunque, in proposito col fiduciario della cellula comunista del suo rione, o scriva a Lapira. È la stessa cosa. Oremus. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giovanni Guareschi, Cristo fra i metallurgici, pubblicato sul numero 23, 6 giugno 1959, della rivista Candido. Lo potete trovare nel volume Mondo Candido 1958-1960, edito da Rizzoli, 516 pagine, 49 euro.